Capitolo quindicesimo del Fu Mattia Pascal. Questa registrazione LibriVox è di pubblico dominio. Registrato da Riccardo Fasol. Il Fu Mattia Pascal di Luigi Pirandello. Capitolo quindicesimo. Io e l'ombra mia. Mi è avvenuto più volte svegliandomi nel cuor della notte. La notte in questo caso non dimostra veramente d'aver cuore. Mi è avvenuto di provare al buio, nel silenzio, una strana meraviglia, uno strano impaccio, al ricordo di qualche cosa fatta durante il giorno, alla luce, senza badarci. E ho domandato allora a me stesso se a determinar le nostre azioni non concorrano anche i colori, la vista delle cose circostanti, il vario frastuono della vita. Ma sì, senza dubbio, e chissà quant'altre cose. Non viviamo noi, secondo il signor Anselmo, in relazione con l'universo. Ora sta a vedere quante sciocchezze questo maledetto universo ci fa commettere, di cui poi chiamiamo responsabile la misera coscienza nostra, tirata da forze esterne, abbagliata da una luce che è fuor di lei. E all'incontro, quante deliberazioni prese, quanti disegni architettati, quanti espedienti macchinati durante la notte, non appaiono poi vani e non crollano e non sfumano alla luce del giorno. Com'altro è il giorno, altro la notte, così forse una cosa siamo noi di giorno, altra di notte. Miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di giorno. So che, aprendo dopo 40 giorni le finestre della mia camera, io non provai alcuna gioia nel riveder la luce. Il ricordo di ciò che avevo fatto in quei giorni al buio me la offuscò orribilmente. Tutte le ragioni e le scuse, le persuasioni che in quel buio avevano avuto il loro peso e il loro valore, non ne ebbero più alcuno appena spalancate le finestre, o ne ebbero un altro al tutto opposto. E invano quel povero me, che per tanto tempo se n'era stato con le finestre chiuse e aveva fatto di tutto per alleviarsi la noia smaniosa della prigionia, ora, timido come un cane bastonato, andava appresso a quell'altro me che aveva aperte le finestre e si destava alla luce del giorno, accigliato, severo, impetuoso. Invano cercava di stornarlo dai foschi pensieri, inducendolo a compiacersi piuttosto dinanzi allo specchio del buon esito dell'operazione e della barba ricresciuta e anche del pallore che in qualche modo m'ingentiliva l'aspetto. «Imbecille, che hai fatto? Che hai fatto?» «Che avevo fatto? Niente, siamo giusti. Avevo fatto all'amore, al buio. Era colpa mia. Non avevo veduto più ostacoli e avevo perduto il ritegno che m'ero imposto. Papiano voleva togliermi Adriana. La signorina caporale me l'aveva data, me l'aveva fatta sedere accanto e s'era buscato un pugno sulla bocca, poverina. Io soffrivo e naturalmente per quelle sofferenze credevo come ogni altro sciagurato, leggi uomo, d'aver diritto a un compenso e poiché l'avevo allato, me l'ero preso. Lì si facevano gli esperimenti della morte e Adriana accanto a me. Era la vita che aspettava un bacio per schiudersi alla gioia. Ora Manuel Bernaldez aveva baciato al buio la sua Pepita e allora anch'io... Ah. Mi buttai sulla poltrona con le mani sulla faccia. Mi sentivo fremere le labbra al ricordo di quel bacio. Adriana, Adriana, che speranze le avevo acceso in cuore con quel bacio. Mia sposa, è vero. Aperte le finestre, festa per tutti. Rimasi non so per quanto tempo lì su quella poltrona a pensare, ora con gli occhi sbarrati, ora restringendomi tutto in me rabbiosamente, come per schermirmi da un fitto spasimo interno. Vedevo finalmente. Vedevo in tutta la sua crudezza la frode della mia illusione. Che cos'era in fondo ciò che m'era sembrata la più grande delle fortune nella prima ebbrezza della mia liberazione? Avevo già sperimentato come la mia libertà, che a principio m'era parsa senza limiti, ne avesse purtroppo nella scarsezza del mio denaro. Poi m'ero accorto che essa più propriamente avrebbe potuto chiamarsi solitudine e noia e che mi condannava a una terribile pena, quella della compagnia di me stesso. Mi ero allora accostato agli altri, ma il proponimento di guardarmi bene dal riallacciare fosse anche debolissimamente le fila recise a che era valso. Ecco, s'erano riallacciate da sé quelle fila. E la vita, per quanto io già in guardia mi fossi opposto, la vita mi aveva trascinato con la sua foga irresistibile. la vita che non era più per me. Ma ora me ne accorgevo veramente, ora che non potevo più con vani pretesti, con infingimenti quasi puerili, con pietose meschinissime scuse, impedirmi di assumer coscienza del mio sentimento per Adriana, attenuare il valore delle mie intenzioni, delle mie parole, dei miei atti. Troppe cose, senza parlare, le avevo detto, stringendole la mano, inducendola a intrecciar con le mie le sue dita. E un bacio infine, aveva suggellato il nostro amore. Ora, come risponder coi fatti alla promessa? Potevo far mia Adriana? Ma nella gora del molino, là alla stia, ci avevano buttato me, quelle due buone donne, Romilda e la vedova pescatore. Non ci s'eran mica buttate loro. E libera, dunque, era rimasta lei, mia moglie, non io, che m'ero acconciato a fare il morto lusingandomi di poter diventare un altro uomo, vivere un'altra vita. Un altro uomo sì, ma a patto di non far nulla. E che uomo, dunque? Un'ombra d'uomo. E che vita? Finché m'ero contentato di star chiuso in me e di veder vivere gli altri, sì, avevo potuto bene o male salvar l'illusione che io stessi vivendo un'altra vita, ma ora che a questa m'ero accostato fino a cogliere un bacio da due care labbra, ecco, mi toccava ritrarmene inorridito come se avessi baciato Adriana con le labbra d'un morto che non poteva rivivere per lei. Labbra mercenarie sì, avrei potuto baciarne, ma che sapor di vita in quelle labbra? Oh, se Adriana, conoscendo il mio strano caso... Lei? No, no. Che neanche a pensarci. Lei così pura, così timida. Ma seppur l'amore fosse stato in lei più forte di tutto, più forte d'ogni riguardo sociale... Ah, povera Adriana. E come avrei potuto io chiuderla con me nel vuoto della mia sorte, farla compagna d'un uomo che non poteva in alcun modo dichiararsi e provarsi vivo? Che fare? Che fare? Due colpi all'uscio mi fecero balzar dalla poltrona. Era lei, Adriana. Per quanto con uno sforzo violento cercassi di arrestare in me il tumulto dei sentimenti, non potei impedire che non le apparissi almeno turbato. Turbata era anche lei, ma dal pudore, che non le consentiva di mostrarsi lieta come avrebbe voluto, di rivedermi finalmente guarito alla luce e contento. No. Perché no? Alzò appena gli occhi a guardarmi. Arrossì, mi porse una busta. Ecco per lei. Una lettera? Non credo, sarà la nota del dottor Ambrosini. Il servo vuol sapere se c'è risposta. Le tremava la voce. Sorrise. Subito, diss'io. Ma un'improvvisa tenerezza mi prese, comprendendo che ella era venuta con la scusa di quella nota per aver da me una parola che la raffermasse nelle sue speranze. Un'angoscia. Profonda pietà mi vinse, pietà per lei e di me. Pietà crudele, che mi spingeva irresistibilmente a carezzarla, a carezzare in lei il mio dolore, il quale soltanto in lei, che pur ne era la causa, poteva trovar conforto. E pur sapendo che mi sarei compromesso ancor più, non seppi resistere. Le porsi ambo le mani. Ella, fiduciosa, ma col volto in fiamme, alzò pian piano le sue e le pose sulle mie. Mi attirai allora la sua testina bionda sul petto e le passai una mano sui capelli. Povera Adriana. Perché? Mi domandò sotto la carezza. Non siamo contenti? Sì. E allora perché povera? Ebbi in quel momento un impeto di ribellione. Fui tentato di svelarle tutto, di risponderle perché, senti, io ti amo e non posso, non debbo amarti. Se tu vuoi però, ma dalli, che poteva volere quella mite creatura. Mi premetti forte sul petto la sua testina e sentii che sarei stato molto più crudele se dalla gioia suprema a cui ella, ignara, si sentiva in quel punto innalzata dall'amore, io l'avessi fatta precipitare nell'abisso della disperazione che era in me. Perché, dissi lasciandola, perché so tante cose per cui lei non può essere contenta. Ebbe come uno smarrimento penosissimo nel vedersi così d'un tratto sciolta dalle mie braccia. Si aspettava forse dopo quelle carezze che io le dessi del tu? Mi guardò e notando la mia agitazione domandò esitante: cose che sa lei, per sé o qui, di casa mia. Le risposi col gesto qui qui, per togliermi la tentazione che di punto in punto mi vinceva di parlare, di aprirmi con lei. L'avessi fatto, cagionandole subito quell'unico forte dolore, gliene avrei risparmiato altri, e io non mi sarei cacciato in nuovi e più aspri garbugli. Ma troppo recente era allora la mia triste scoperta. Avevo ancor bisogno d'approfondirla bene, e l'amore e la pietà mi toglievano il coraggio d'infrangere così d'un tratto le speranze di lei e la mia vita stessa, cioè quell'ombra d'illusione che di essa, finché tacevo, poteva ancora restarmi. Sentivo poi quanto odiosa sarebbe stata la dichiarazione che avrei dovuto farle, che io, cioè, avevo moglie ancora, sì sì, svelandole che non ero Adriano Meis, io tornavo ad essere Mattia Pascal, morto e ancora ammogliato. Come si possono dire siffatte cose? Era il colmo questo della persecuzione che una moglie possa esercitare sul proprio marito, liberarsene lei, riconoscendolo morto nel cadavere d'un povero annegato, e pesare ancora, dopo la morte, su lui, addosso a lui, così. Io avrei potuto ribellarmi, è vero, dichiararmi vivo allora. Ma chi al posto mio non si sarebbe regolato come me? Tutti, tutti come me in quel punto, nei panni miei, avrebbero stimato certo una fortuna potersi liberare in un modo così inatteso, insperato, insperabile, della moglie, della suocera, dei debiti, d'un'egra e misera esistenza come quella mia. Potevo mai pensare allora che neanche morto mi sarei liberato della moglie? Lei sì di me e io no di lei? E che la vita che m'ero veduta dinanzi libera, libera, libera, non fosse in fondo che una illusione, la quale non poteva ridursi in realtà, se non superficialissimamente, più schiava che mai, schiava delle finzioni, delle menzogne che con tanto disgusto m'ero veduto costretto a usare, schiava del timore d'essere scoperto pur senza aver commesso alcun delitto. Adriana riconobbe che non aveva in casa veramente di che esser contenta, ma ora, e con gli occhi e con un mesto sorriso, mi domandò se mai per me potesse rappresentare un ostacolo ciò che per lei era cagione di dolore. No, è vero, chiedeva quello sguardo e quel mesto sorriso. Oh, ma paghiamo il dottor Ambrosini, esclamai, fingendo di ricordarmi improvvisamente della nota e del servo che attendeva di là. Lacerai la busta e senza por tempo in mezzo, sforzandomi d'assumere un tono scherzoso. 600 lire, dissi. Guardi un po', Adriana. La natura fa una delle sue solite stramberie. Per tanti anni mi condanna a portare un occhio, diciamo così, disobbediente. Io soffro dolori e prigionia per correggere lo sbaglio di lei e ora, per giunta, mi tocca a pagare. Le sembra giusto? Adriana sorrise con pena. Forse, disse, il dottor Ambrosini non sarebbe contento se lei gli rispondesse di rivolgersi alla natura per il pagamento. Credo che si aspetti anche ad essere ringraziato, perché l'occhio... Le par che stia bene? Ella si sforzò a guardarmi e disse piano, riabbassando subito gli occhi. Sì, pare un altro. Io ho l'occhio. Lei. Forse con questa barbaccia? No, perché? Le sta bene. Me lo sarei cavato con un dito, quell'occhio. Che mi importava più d'averlo a posto? Eppure, dissi, forse esso per conto suo era più contento prima. Ora mi dà un certo fastidio. Basta. Passerà. Mi recai allo stipetto a muro in cui tenevo il denaro. Allora Adriana accennò di volersene andare, io, stupido, la trattenni, ma già, come potevo prevedere. In tutti gli impicci miei, grandi e piccini, sono stato, come si è visto, soccorso sempre dalla fortuna. Ora ecco com'essa anche questa volta mi venne in aiuto. Facendo per aprire lo stipetto, notai che la chiave non girava entro la serratura. Spinsi appena appena e subito lo sportellino cedette. Era aperto. Come? Esclamai. Possibile che io abbia lasciato così? Notando il mio improvviso turbamento, Adriana era diventata pallidissima. La guardai e... Ma qui... Guardi, signorina, qui qualcuno ha dovuto mettere le mani. C'era dentro lo stipetto un gran disordine. I miei biglietti di banca erano stati tratti dalla busta di cuoio in cui li tenevo custoditi ed erano lì sul palchetto sparpagliati. Adriana si nascose il volto con le mani inorridita. Io raccolsi febbrilmente quei biglietti e mi diedi a contarli. «Possibile!» esclamai dopo aver contato, passandomi le mani tremanti sulla fronte ghiaccia di sudore. Adriana fu per mancare, ma si sorresse a un tavolinetto lì presso e domandò con una voce che non mi parve più la sua. «Hanno rubato Aspetti, aspetti, com'è possibile? Dissi io. E mi rimisi a contare, sforzando rabbiosamente le dita e la carta, come se a furia di stropicciare potessero da quei biglietti venir fuori gli altri che mancavano. Quanto? Mi domandò ella, scontraffatta dall'orrore, dal ribrezzo, appena ebbi finito di contare. 12.000 lire, balbettai. Erano 65, sono 53, conti lei. Se non avessi fatto a tempo a sorreggerla, la povera Adriana sarebbe caduta per terra come sotto una mazzata. Tuttavia, con uno sforzo supremo, ella poté riaversi ancora una volta e, singhiozzando, convulsa, cercò di sciogliersi da me che volevo adagiarla sulla poltrona e fece per spingersi verso l'uscio. «Chiamo il babbo, chiamo il babbo!» «No!» le gridai, trattenendola e costringendola a sedere. «Non si agiti così, per carità, lei mi fa più male. Io non voglio, non voglio!» «Che c'entra lei? Per carità, si calmi!» «Mi lasci prima accertare, perché sì, lo stipetto era aperto, ma io non posso, non voglio credere ancora a un furto così ingente!» Stia buona, via. E da capo, per un ultimo scrupolo, tornai a contare i biglietti. Pur sapendo di certo che tutto il mio denaro stava lì, in quello stipetto, mi diedi a rovistare dappertutto, anche dove non era in alcun modo possibile che io avessi lasciato una tal somma, tranne che non fossi stato colto da un momento di pazzia. E per indurmi a quella ricerca, che m'appariva a mano sempre più sciocca e vana, mi sforzavo di credere inverosimile l'audacia del ladro. Ma Adriana, quasi farneticando con le mani sul volto e con la voce rotta dai singhiozzi, è inutile, gemeva. Ladro, ladro, anche ladro, tutto congegnato avanti. Ho sentito nel buio, m'è nato il sospetto, ma non volli credere che gli potesse arrivare fino a tanto. Papiano, sì, il ladro non poteva essere altri che lui. Lui, per mezzo del fratello, durante quelle sedute spiritiche. «Ma come mai, gemette ella angosciata, come mai teneva lei tanto denaro così in casa?» Mi voltai a guardarla inebetito. Che risponderle? Potevo dirle che per forza, nella condizione mia, dovevo tener con me il denaro. Potevo dirle che mi era interdetto di investirlo in qualche modo, d'affidarlo a qualcuno, che non avrei potuto neanche lasciarlo in deposito in qualche banca, giacché se poi per caso fosse sorta qualche difficoltà non improbabile per ritirarlo, non avrei più avuto modo di far riconoscere il mio diritto su esso. E per non apparire stupito, fui crudele. «Potevo mai supporre?» dissi. Adriana si coprì di nuovo il volto con le mani, gemendo, straziata. «Dio, Dio, Dio!» Lo sgomento che avrebbe dovuto assalire il ladro nel commettere il furto invase me, invece, al pensiero di ciò che sarebbe avvenuto. Papiano non poteva certo supporre ch'io incolpassi di quel furto il pittore spagnuolo o il signor Anselmo, la signorina caporale o la serva di casa o lo spirito di Max. Doveva esser certo che avrei incolpato lui, lui e il fratello. Eppure ecco, ci s'era messo, quasi sfidandomi. E io? Che potevo fare io? Denunziarlo? E come? Ma niente, niente, niente. Io non potevo far niente, ancora una volta niente. Mi sentii atterrato, annichilito. Era la seconda scoperta in quel giorno. Conoscevo il ladro e non potevo denunziarlo. Che diritto avevo io alla protezione della legge? Io ero fuori d'ogni legge. Chi ero io? Nessuno. Non esistevo io per la legge. E chiunque ormai poteva rubarmi, e io zitto. Ma tutto questo Papiano non poteva saperlo. E dunque? Come ha potuto farlo? Dissi quasi tra me. Da che gli è potuto venire tanto ardire? Adriana levò il volto dalle mani e mi guardò stupita, come per dire: «E non lo sai?» «Ah già», feci comprendendo a un tratto. «Ma lei lo denunzierà!» esclamò ella levandosi in piedi. «Mi lasci, la prego, mi lasci chiamare il babbo, lo denunzierà subito!» Feci in tempo a trattenerla ancora una volta. Non ci mancava altro che ora per giunta Adriana mi costringesse a denunziare il furto. Non bastava che mi avessero rubato come niente 12.000 lire. Dovevo anche temere che il furto si conoscesse, pregare, scongiurare Adriana che non lo gridasse forte e non lo dicesse a nessuno, per carità. Ma che Adriana, e ora lo intendo bene, non poteva assolutamente permettere che io tacessi e obbligassi anche lei al silenzio. Non poteva in verun modo accettare quella che pareva una mia generosità per tante ragioni. Prima per il suo amore, poi per l'onorabilità della sua casa, e anche per me, e per l'odio che la portava al cognato. Ma in quel frangente La sua giusta ribellione mi parve proprio di più. Esasperato le gridai: «Lei si starà zitta, gliel'impongo! Non dirà nulla a nessuno, ha capito? Vuole uno scandalo!» «No, no!» s'affrettò a protestare piangendo la povera Adriana. «Voglio liberare la mia casa dall'ignominia di quell'uomo!» «Ma egli negherà!» incalzai io. «E allora lei, tutti di casa, innanzi al giudice, non capisce?» «Sì, benissimo», rispose Adriana con fuoco, tutta vibrante di sdegno. «Neghi, neghi pure, ma noi, per conto nostro, abbiamo altro, creda, da dire contro di lui. Lei lo denunzi, non abbia riguardo, non tema per noi. Ci farà un bene, creda, un gran bene. Vendicherà la povera sorella mia. Dovrebbe intenderlo, signor Meis, che mi offenderebbe se non lo facesse. Io voglio, voglio che lei lo denunzi. Se non lo fa lei, lo farò io. Come vuole che io rimanga con mio padre sotto quest'onta? No, no, no, e poi...» Me la strinsi fra le braccia. Non pensai più al denaro rubato, vedendola soffrire così, smaniare, disperata, e le promisi che avrei fatto come ella voleva purché si calmasse. No, che onta! Non c'era alcuna onta per lei, né per il suo babbo. Io sapevo su chi ricadeva la colpa di quel furto. Papiano aveva stimato che il mio amore per lei valesse bene 12.000 lire, e io dovevo dimostrargli di no? Denunziarlo? Ebbene sì, l'avrei fatto, non per me, ma per liberar la casa di lei da quel miserabile. Sì, ma a un patto. Che ella, prima di tutto, si calmasse. Non piangesse più così, via, via. E poi, che mi giurasse su quel che aveva di più caro al mondo, che non avrebbe parlato a nessuno di quel furto, se prima io non consultavo un avvocato per tutte le conseguenze che in tanta sovreccitazione né io né lei potevamo prevedere. «Me lo giura? Su ciò che ha di più caro?» Me lo giurò, e con uno sguardo tra le lagrime mi fece intendere su che cosa me lo giurava, che cosa avesse di più caro. Povera Adriana. Rimasi lì, solo, in mezzo alla camera, sbalordito, vuoto, annientato. Come se tutto il mondo per me si fosse fatto vano. Quanto tempo passò prima ch'io mi riavessi? E come mi riebbi? Scemo. Scemo! Come uno scemo andai a osservare lo sportello dello stipetto per vedere se non ci fosse qualche traccia di violenza. No, nessuna traccia. Era stato aperto pulitamente con un grimaldello mentre io custodivo con tanta cura in tasca la chiave. «E non si sente lei?» mi aveva domandato il Paleari alla fine dell'ultima seduta. «Non si sente lei come se le avessero sottratto qualche cosa?» 12.000 lire! Di nuovo il pensiero della mia assoluta impotenza, della mia nullità, mi assalì, mi schiacciò. Il caso che potessero rubarmi e che io fossi costretto a restar zitto, e finanche con la paura che il furto fosse scoperto, come se l'avessi commesso io e non un ladro a mio danno, non mi s'era davvero affacciata alla mente. 12.000 lire? Ma poche, poche! Possono rubarmi tutto, levarmi fin la camicia di dosso e io zitto! Che diritto ho io di parlare? La prima cosa che mi domanderebbero sarebbe questa: «E voi chi siete? Donde vi era venuto quel denaro?» Ma senza denunziarlo, vediamo un po' se questa sera io lo afferro per il collo e gli grido: «Qua subito il denaro che hai tolto di là dallo stipetto, pezzo di ladro!» Egli strilla, nega. Può forse dirmi: «Sì signore, eccolo qua, l'ho preso per sbaglio». E allora? Ma c'è il caso che mi dia anche querela per diffamazione. Zitto dunque, zitto. M'è sembrato una fortuna l'esser creduto morto? Ebbene, e sono morto davvero. Morto. Peggio che morto. Me l'ha ricordato il signor Anselmo. I morti non debbono più morire. E io sì. Io sono ancora vivo per la morte e morto per la vita. Che vita infatti può essere più la mia? La noia di prima, la solitudine, la compagnia di me stesso? Mi nascosi il volto con le mani. Caddi a sedere sulla poltrona. Ah, fossi stato almeno un mascalzone. Avrei potuto forse adattarmi a restar così, sospeso nell'incertezza della sorte, abbandonato al caso, esposto a un rischio continuo, senza base, senza consistenza. Ma io? Io no. E che fare dunque? Andarmene via? E dove? E Adriana? Ma che potevo fare per lei? Nulla, nulla. Come andarmene però così senza alcuna spiegazione dopo quanto era accaduto? Ella ne avrebbe cercato la causa in quel furto, avrebbe detto, e perché ha voluto salvare il reo e punir me innocente? Ah no, no, povera Adriana. Ma d'altra parte, non potendo far nulla, come sperare di rendere men trista la mia parte verso di lei? Per forza dovevo dimostrarmi inconseguente e crudele. L'inconseguenza, la crudeltà, erano della mia stessa sorte, e io per il primo ne soffrivo. Fin Papiano, il ladro, commettendo il furto, era stato più conseguente e men crudele di quel che purtroppo avrei dovuto dimostrarmi io. Egli voleva Adriana per non restituire al suocero la dote della prima moglie. Io avevo voluto togliergli Adriana e dunque la dote bisognava che la restituissi io al Paleari. Per ladro, conseguentissimo. Ladro? Ma neanche ladro. Perché la sottrazione, in fondo, sarebbe stata più apparente che reale. Infatti, conoscendo egli l'onestà di Adriana, non poteva pensare che io volessi farne la mia amante. Volevo certo farla mia moglie. Ebbene, allora, avrei riavuto il mio denaro sotto forma di dote d'Adriana, e per di più avrei avuto una mogliettina saggia e buona, che cercavo di più. Oh, io ero sicuro che potendo aspettare, se Adriana avesse avuto la forza di serbare il segreto, avremmo veduto Papiano a tener la promessa di restituire anche prima dell'anno di comporto la dote della defunta moglie. Quel denaro, è vero, non poteva più venire a me, perché Adriana non poteva esser mia, sarebbe andato a lei, se ella ora avesse saputo tacere, seguendo il mio consiglio, e se io mi fossi potuto trattenere ancora per qualche po' di tempo lì. Molta arte avrei dovuto adoperare. E allora Adriana, se non altro, ci avrebbe forse guadagnato questo, la restituzione della sua dote. M'acquietai un po', almeno per lei, pensando così. Ah, non per me. Per me rimaneva la crudezza della frode scoperta, quella della mia illusione, di fronte a cui era nulla il furto delle 12.000 lire. Era anzi un bene se poteva risolversi in un vantaggio per Adriana. Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con quell'esperienza fatta, me ne sarei andato via ora da quella casa a cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po' di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido, e di nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricadere nei lacci della vita mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso. E il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me. Uscii di casa come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle. Che ero andato a fare lì? Mi guardai attorno. Poi gli occhi mi s'affissarono sull'ombra del mio corpo. E rimasi un tratto a contemplarla. Infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non potevo calpestarla, l'ombra mia. Chi era più ombra di noi due, io o lei? Due ombre. Là, là per terra. E ciascuno poteva passarci sopra, schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore, e io zitto, l'ombra zitta. L'ombra d'un morto. Ecco la mia vita. Passò un carro. Rimasi lì fermo, apposta. Prima il cavallo con le quattro zampe, poi le ruote del carro. Là, così, forte sul collo. Oh, anche tu, cagnolino. Su, da bravo, sì, alza un'anca, alza un'anca. Scoppiai a ridere d'un maligno riso. Il cagnolino scappò via spaventato. Il carrettiere si voltò a guardarmi. Allora mi mossi e l'ombra meco dinanzi. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri carri, sotto i piedi dei viandanti, voluttuosamente. Una smania mala mi aveva preso, quasi adunghiandomi il ventre. Alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra. Avrei voluto scuotermela dai piedi. Mi voltai, ma ecco. La avevo dietro ora. E se mi metto a correre, pensai, mi seguirà. Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione, ma sì, così era. Il simbolo, lo spettro della mia vita era quell'ombra. Ero io, là per terra, esposto alla mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla stia, la sua ombra per le vie di Roma. Ma aveva un cuore quell'ombra e non poteva amare. Aveva denari quell'ombra e ciascuno poteva rubarglieli. Aveva una testa, ma per pensare comprendere che era la testa di un'ombra e non l'ombra d'una testa. Proprio così. Allora la sentii come cosa viva. E sentii dolore per essa come il cavallo e le ruote del carro e i piedi dei viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì esposta per terra. Passò un tram e vi montai. Rientrando in casa. Fine del capitolo quindicesimo.